lì e lo sollevo, anziché sollevarlo, lo sollevo a metà, tanto sono già in alto, non c'è bisogno di alzarsi l'antenna in piccolo, lo metto a 4 metri anziché a 6 e 2 li lascio dentro, quello è grosso il palo e basta, lo lascio così e via, poi le altre me le faccio piano piano, intanto devo mettere la 510, quella della Daimon, devo mettere la X300, i 4, i 3 di Puri, quelli 10, 20, 40, 80 e l'antenna dei 6 metri, e quelle me le posso fare piano piano, quando arriva la scaleria quelle sono già tutte pronte le cose, capito? Da pagappa, che facciamo a pigliare a Luca? Ripetete la Luca! La fame va. Beh, sono le 8 e 10, 8 e 12 c'ho io qua, perlomeno l'orologio che c'è qua a Pesarmulo sono le 8 e 12, 20 e 12, quindi fra un po' devo mangiare pure lui. Eh beh, papà, quando ci vuole, ci vuole. No, ma non è che sta mangiando molto presto. L'MC85 è questo. 85, sì, spinge bene. Cosa c'è il compressore inserito? No, perché se no spaccolerice a tutti, mi hanno detto. Non conviene, sì, il compressore. Se lavori col processore della radio, Mario, lascialo spento. Se poi non lavori col processore della radio, puoi inserire il compressore del microfono. E l'ho avuto anch'io quello, sia l'80 che l'85. Come faceva la modulazione troppo amplificata, allora sono tornato all'MC60. Thank you. un ingresso a quattro uscite, quindi con l'antenna puoi usare quattro radio. Dovresti avere uno di quei commutatori tu. Io con la T250, che è la colatura del 140, c'è un ingresso e quattro uscite. E da lì commuto le radio, commuto quelle che mi servono, capito? Anche perché i cavi di connessione sono tutti uguali, quindi non cambia assolutamente niente. Gatta, no, questo accordatore c'ha tre ingressi di antenna e invece è una sola uscita. Cioè se io ho tre antenne le potrei collegare tutte e tre lì, però l'uscita è una sola. C'è la radio che stai utilizzando e basta. Auto. Dimmi, Antonio. E quando fa volte c'è uno stato strano e quando muo lui. C'è un fatto, come si fa? Tutto esci come normale. Oh. Ehi, sono lui quando vedi chi i microfoni, che erano un bel po' di tempo senza usarli. Anche adesso, Antonio. Questa volta no, ma poco fa sì, però. Che avevi un. Uscito tutto spazio, strano, e poi si è stabilizzato, capito? Vabbè, non io posso fare passaggi molto lunghi con questa antenna così. Altrimenti le 8:25 sono. Io vi saluto, se ci siete li prendiamo dopo. Se no, riteneteli tutti salutati. Per me è 40 che vado a cenare, mi sta già facendo di mano mia moglie. Ci sentiamo alle prossime. Comunque domani, Antone, se ci sentiamo ci vediamo, dai. E così proviamo anche quella antenna. Va bene. A te Mario, io vi lascio, buona cena a tutti e saluto chi è in ascolto. Ciao. Ciao, buona carica, buon tutto. Sei coincide tutto al dopo, se no alla prossima. Buona carica, buon tutto e saluto la Corea. Ce la sentimo, avanti Antonello. Sì, a botta limite qua, c'è problema, ci sentiamo. Ok. Aspetta un attimo, io. Allora. Sempre di questo, non è possibile che una cosa. Questa bella veramente guarda. Come ascolti il segnale? 1, 3, 4, 5, 6. Va bene, faccio un attimino, vengo subito. Luca, hai già mangiato? No, domani, sentiamo dopo, 17.